Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non un granché direi, no? L'ultimo test premondiale dell'Italia. Oggi dunque è il 5 marzo, 0-0 con il Camerun, 4 anni fa per l'esattezza, stessa data, insomma diciamo 1 marzo, ma cambia poco, cambiano 3 giorni, 1 marzo 2006 a Firenze, 4-1 alla Germania, e mi sembra ci sia una discreta differenza per chi ricorda anche vagamente quella partita. È vero che poi quel che conta è farsi trovare pronti a metà giugno, essere in condizione, essere convinti, avere tutto quello che l'Italia ebbe 4 anni fa, grazie anche a motivazioni esterne, averle a quel punto della stagione, ma è indubbio che a marzo quella era un'Italia diversa, più matura, ma non ancora in fase di surmaturazione, come invece mi pare che sia questa, che a occhio e croce è una parente certamente, ma una parente nemmeno strettissima. D'altra parte i bookmakers hanno appena aggiornato le quote anche dopo quest'ultimo test premondiale che ha coinvolto tutte le partecipanti, e al primo posto ci sono Spagna e Brasile che sono dati a 6, al secondo c'è l'Inghilterra subito a ruota a 7, poi vengono Argentina e Italia quotate a 12, poi viene l'Olanda a 14 e chiudono il gruppo delle insomma, favorite o presunte tali a 16 la Germania e la Francia, battute in casa ieri sera rispettivamente dall'Argentina e da una Spagna sempre più autorevole, dovessi oggi, viste oggi, tra Spagna e Brasile forse qualcosina di più la Spagna, ma se ne può parlare e se ne parlerà infatti un pochino più tardi. Adesso restiamo per il momento all'Italia e sentiamo il commento sintetico di Lippi sulla partita. Partita molto utile perché abbiamo visto tanto i ragazzi che avevo chiamato per la prima volta, Borriello era già stato in nazionale, ma Bonucci e Costo per esempio hanno fatto una partita con buona personalità, con buona autorità, e poi gli altri lo fate girare un po', però è stata una partita che è stata molto utile. Utile certamente sì, perché è sempre utile vedere a che punto si è. È anche vero che non era una partita facile e che la scelta, dato che insomma gli avversari si scelgono in questi, non è come in una grande manifestazione dove ci pensa il sorteggio ad accoppiarti a qualcuno. In questi casi in amichevole gli avversari si scelgono. Il fatto che l'Italia abbia scelto il Camerun significa che della bella figura gliene importava fino a un certo punto, perché se c'è una squadra in giro per il mondo, una squadra, insomma, è una delle squadre contro cui è più difficile giocare, perché sono compatti, sono tignosi, sono abbastanza fallosi, non gliene importa nulla o pochissimo della bella figura, e quindi tendono più a non far giocare te che a pensare a giocare loro. Da questo punto di vista potrebbe essere stato utile questo test, ma insomma è un'utilità che è un po' difficile da spiegare al pubblico, che si aspetterebbe qualcosa di diverso, quello che per esempio ha mostrato il Brasile in Irlanda, ma soprattutto la Spagna ieri sera a Saint-Denis. Spagna che in Francia non vinceva da 42 anni, e anche questo qualcosa vorrà pur dire. Ha parlato dei due debuttanti Lippi, allora sentiamo Bonucci, che mi pare della serata la nota certamente più lieta, cioè finalmente un'alternativa credibile sia tatticamente che fisicamente in difesa. Bonucci: ho cercato di fare, come aveva detto il mister, quello che sapevo e di impostare l'azione come avevamo provato in questi due giorni. Penso di aver superato la prova, ma questo voglio che sia soltanto un punto di partenza. Giocare vicino a tanti campioni è sempre tutto più facile. Questa non si discute, quindi io penso a far bene domenica dopo domenica, e poi la decisione è tutta del mister. Io cerco sempre di essere me stesso, né di più e né di meno, ho cercato di applicarmi giorno dopo giorno e anche qui in nazionale, e evidentemente ho soddisfatto tutti, se arrivano complimenti così tanti. È vero, e infatti Bonucci è uno di quelli che i complimenti se li è meritati, in misura forse un po' minore Cossu, ma è anche vero che il suo ruolo, il suo compito era un po' più impegnativo, proprio per ragioni tattiche, le difficoltà, per il fatto che in questo momento è difficile entrare nell'attacco italiano e provare a essere protagonisti, perché non c'è un vero gioco offensivo, e non ci sono grandi attaccanti e non c'è un vero gioco offensivo. È arrivata invece la vittoria dell'Under 21 contro l'Ungheria ed è stata insomma la vittoria che doveva essere, ma non particolarmente, poi mi pare, né brillante né ricca di grandi indicazioni. C'era la curiosità per questa coppia di attaccanti Balotelli o Kaká, se la sono cavata bene, non benissimo forse, comunque bene, più che decorosamente, ma è ovvio che siamo in un ambito di Under 21 e non in un ambito di nazionale maggiore, bisogna tenere conto anche degli avversari, delle difficoltà che ti possono proporre. In ogni caso una bella gioia, io credo, per Okaka, che aveva salutato l'Italia con un gol con la maglia della Roma prima di trasferirsi in Inghilterra, e ieri sera al suo primo rientro italiano a Terni, dove giocava appunto l'Under 21, ha subito ritrovato la porta Okaka. Sì, è stata una bella partita, siamo partiti subito bene, poi ho trovato il gol, abbiamo sbloccato la partita e ci siamo mossi bene, abbiamo portato a casa il risultato, l'unico risultato che dovevamo fare, cioè la vittoria. Quando arrivi a questo punto della stagione che tanti giocatori incominciano a giocare nei club anche di Serie A oppure come me fuori all'estero, è normale che a livello di personalità si migliora, in campo si vede e lo stiamo dimostrando, oggi abbiamo dimostrato e speriamo di far bene anche in futuro con le partite che verranno. Un altro degli argomenti di questi giorni, prima di tornare poi alla nazionale, è certamente quello delle prime squalifiche per bestemmie. Ieri se ne è parlato a lungo, se ne è parlato anche con uno studioso del calcio e del costume italiano che risiede a Londra e che si chiama John Foote. Il suo intervento è stato particolarmente significativo rispetto a questa nuova severità, no? che ha colpito alcuni reprobi del nostro campionato. Allora, il primo allenatore squalificato è stato Di Carlo, il primo allenatore di questa tornata, perché c'era già stata una recrudescenza qualche anno fa e mi pare che il primo colpito fosse Silvio Baldini allora, ma in ogni caso in questa nuova serie, diciamo, il primo squalificato è Di Carlo. Sentiamo come l'allenatore del Chievo ha commentato questa squalifica. Chiaro che sono rimasto sorpreso, un po' arrabbiato, un po' amareggiato, perché inaspettata, anche perché sinceramente devo dire che io domenica non mi ricordo assolutamente né quando e né il motivo, perché è stata una partita sì di tensione, però non mi sembrava di aver fatto cose incredibili sotto questo aspetto qui. Sicuramente se il procuratore federale ha scritto qualcosa, sicuramente qualcosa ho fatto, questo voglio dire, perciò sì, l'errore c'è stato probabilmente. Però sotto questo aspetto qui sinceramente non posso dire niente, ne chiedo scusa per quello che se è successo durante la partita, in quel caso lì, di aver detto qualcosa, questa espressione blasfema, però sinceramente non me ne sono neanche accorto e non me lo ricordo nemmeno. Ma non c'è tanta opinione, hanno messo una regola e bisogna rispettarla, è chiaro che secondo me in futuro spero che magari qualcuno pensi che durante la gara, parlo da allenatore, che ci sono momenti di tensione da parte di tutti, giocatori e allenatori, perciò in quei momenti di tensione bisogna essere anche, secondo me, bravi noi allenatori e giocatori intanto di attenerci alla regola, però in futuro secondo me ci potrebbe essere anche magari qualche richiamo da parte del quarto uomo della Procura federale nel momento in cui c'è questo momento di tensione. L'Under 21 ha giocato a Rieti e non a Terni, oggi è il 4 marzo e non il 5, se me ne ho già infilate due nei primi pochi minuti, vuol dire che la forma è discreta, ecco, paragonabile a quella, direi, no, dell'Italia contro il Camerun. Dicevo che la Spagna non vinceva in Francia da 42 anni, beh, l'anno, a parte che è stata davvero una vittoria molto, molto bella, molto piena, molto... molto meritata, l'hanno festeggiata come si deve oggi sulla stampa spagnola, perché dunque AS, che è uno dei quotidiani sportivi, ha titolato olé a tutta pagina e Marca ha risposto olé olé olé, che così almeno è andato un pochino più avanti e poi il Paese, in un'analisi più approfondita, ha fatto notare come il grande gioco della Spagna abbia indotto gli stessi tifosi, spettatori francesi a contestare prima Thierry Henry e poi soprattutto Domenech, di cui la folla ha proprio chiesto le dimissioni durante il secondo tempo della partita. Bentornato a Nicola Roggero. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Io credo che non ci sia nulla di particolarmente nuovo in questo che comunque resta il risultato clou di questo mercoledì, nel senso che della Spagna sappiamo che se non è la favorita massima per il mondiale, comunque è una delle due tre, e dall'altra parte che la Francia sia in discreta crisi di guida tattica, forse ancora più che di individualità, è noto da qualche tempo. Sì, oramai Domenech in Francia ha la stessa popolarità di cui godeva Maria Antonietta il 14 luglio del 1789, credo, occhio e croce. È un allenatore evidentemente sopravvalutato, la cui permanenza alla guida della Francia è dovuta ancora a quel mondiale del 2006, in cui bene o male la Francia arrivò fino in finale perdendo soltanto i rigori, e certamente giocando dal punto di vista estetico assai meglio dell'Italia. Però è chiaro che Domenech è un allenatore estremamente sopravvalutato, che sta facendo scadere comunque l'ottimo materiale umano di cui ha a disposizione, perché la Francia ha per esempio un giocatore come Henry, ha per esempio un giocatore come Evra, che sulla come fascia difensiva di sinistra rimane uno dei migliori del mondo. Certo. Se la Francia continua a fare così grande fatica, si è arrivata ai mondiali soltanto in virtù di una furbata ai danni della povera Irlanda del Trap, evidentemente il problema sta nel manico. Certo. Quanto alla Spagna, anche qui c'è giustamente nessuna sorpresa, hanno questo eccellente allenatore del Bosque, che al Real Madrid hanno mandato via perché non condivideva la politica dei Galacticos del è vero. Già vecchio gregario delle camisette blanca tra gli anni 70 e l'80. Gregario di grande tecnica, però, perché io l'ho visto giocare non una volta sola. Era lento, era molto lento, però la palla la accarezzava, Del Bosque. Guarda, Gigi, facendo riferimento a un giocatore che probabilmente ci ricordiamo per età soltanto io e te, pochi altri ascoltatori, direi che era una specie di frustalupo un pochino più alto. Perché no? Aveva perché dei piedi comunque eccellenti. Poi sai, essere gregario nel Real Madrid vuol dire comunque avere dei piedi che cantano, certo. Per solito. E insomma, questo Del Bosque lo mandarono via dopo aver vinto la miseria di due Coppe dei Campioni per fare spazio appunto ai Galacticos, e i Galacticos non hanno più vinto nulla. Lui si è trasferito alla Nazionale Spagnola, che è tornata a vincere un europeo da 48 anni dalla prima vittoria, quando però l'europeo nel 60 insomma era una manifestazione semiclandestino quasi. È vero. E soprattutto giocando il miglior calcio che è dato da vedersi in Europa negli ultimi 3-4 anni. Una cosa mi ha colpito, Nicola, ieri sera, che è questa: un po' scanalando durante l'Italia, poco per ragioni professionali, e un po' dopo, ho visto qualche fase di Francia-Spagna e mi ha colpito un paio di cose in particolare. La prima è la facilità di alternanza di pedine e i ricambi che hanno loro. Faccio per dire, il primo tempo l'orchestra dirigeva Fabregas e il secondo tempo Xavi, no, tanto per dirne due. Una. La seconda, tutto questo sul modulo, sullo spartito del Barcellona, perché la maggioranza dei giocatori sono loro e comunque il tipo di calcio che viene praticato in nazionale è quello. La seconda è che per riprodurre meglio il modulo Barça, a destra giocava Silva, quello del Valencia, che non è Messi certamente, ma che faceva, pur essendo un eccellente giocatore anche Silva, ma faceva in pieno le veci di Messi. Quindi è il trasferimento, mi è parso di intravedere, di un modulo vincente, oltre che accattivante, direttamente in nazionale. Direi che questa è la chiave, evidentemente Del Bosque. Uomo di campo e non uomo di paillette, come dicevamo prima, è uno che il calcio lo studia, si è adattato al ruolo del Barcellona, lui peraltro madridista sino in fondo, e ha perfettamente ragione. Tra l'altro rientra nella forza della Spagna il fatto che la squadra dominante in questo momento in Spagna, in Europa e nel mondo, il Barcellona, ha comunque un gran numero di giocatori spagnoli, anzi addirittura catalani a dettare i ritmi, perché da Xavi a Iniesta a Puyol, persino al portiere, insomma il Barcellona di spagnoli ne ha tanti, quindi ha dimostrato che si può vincere anche senza fare in eccedere di stranieri e rispettando comunque le tradizioni di un club. Evidentemente Del Bosque come Guardiola, uomo che arriva appunto dal campo, uomo che arriva dalla tradizione di un club, ha saputo riprodurre anche in nazionale quello che è il modulo vincente. Se poi gli può aggiungere elementi come Fabregas, uno che fa la differenza in Premier League, beh, allora, oppure certo. Torres, che ieri peraltro è stato usato in maniera relativa perché non ha giocato 90 minuti, no, certo, certo. Ciò che fa. Si possono permettere tante soluzioni e hanno anche sempre molti meno infortunati di noi. Questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano, che faremo magari un giorno con un, cioè che rifaremo magari un giorno con un medico sportivo. Nicola, l'Argentina ha vinto in Germania e mi pare che abbia vinto abbastanza bene. L'Inghilterra ha faticato, ma poi ha vinto la sua 500ª partita con una doppietta di Crouch. Il Brasile aveva già vinto la sera prima. Tu intravedi all'orizzonte mondiale un outsider o comunque non si esce da qua? Sto pensando però che l'outsider vero è la Spagna, che non ha mai vinto un mondiale. Esatto. Dal punto di vista storico l'outsider vero è appunto la Spagna, però sì. Altro che outsider, quindi si presenteranno gli spagnoli da campioni d'Europa e con serissime possibilità. Adesso non ricordo esattamente come sono gli accoppiamenti, però io penso che in questo momento se il sorteggio non ci avesse lo zampino, chiunque giocherebbe su una finale Spagna-Brasile. Ma chissà, l'outsider potrebbe essere la vecchia Olanda, che è una squadra che almeno dal punto di vista offensivo rimane una formazione notevole, specialmente se riusciranno a recuperare Van Persie, perché hanno Van Persie, Kite, hanno chissà Untelar, ma hanno soprattutto uno come Sneijder, hanno Van der Vaart, quindi dal punto di vista offensivo sono una squadra molto forte. Poi si giocherà in Sudafrica, in un clima abbastanza fresco, quindi ideale per una squadra che per solito è molto atletica come l'Olanda. Per giunta si giocherà anche in altura, quindi chi dovesse avere più fiato potrebbe essere una squadra che finisce per emergere. Ecco, io forse indicherei l'Olanda, però se in questo momento mi chiedessero appunto di giocare una finale, direi Spagna-Brasile con l'Inghilterra, che ha però la grave incognita del portiere, perché veramente il Capello ha questo problema, cioè mettere tra i pali, chi mettere di decente tra i pali, ecco, con l'Inghilterra di rincorsa. Proprio con l'Inghilterra vorrei concludere, perché insomma il calcio inglese è quello che tu segui più da vicino con i tuoi interventi, in particolare le tue telecronache su Sky. Che tipo di lavoro ha fatto Capello secondo te in questo poco tempo per trasformare l'Inghilterra da una vecchia gloria, non so, a me faceva quell'effetto lì, ma l'ha fatto per tanti anni, forse per decenni, da una vecchia gloria in una squadra così competitiva e quasi favorita? Guarda, io credo che il lavoro di Capello sia cominciato essenzialmente con la disciplina, cioè guarda caso quando è arrivato Capello si è smesso di parlare delle famose WEGs come i tempi del Mondiale in Germania, si è smesso di parlare di scandali, di problemi, di situazioni particolari. C'è il caso Terre adesso, ma questo è un caso all'interno del Chelsea più che all'interno della nazionale inglese. E lo stesso Capello si è dimostrato inflessibile proprio con Terry, togliendogli immediatamente la fascia di capitano per le ben note vicende, e da lì gli stessi giocatori hanno riconosciuto che c'era evidentemente un qualcuno che dettava quel senso di disciplina che agli inglesi mancava, credo, dai tempi della vittoria mondiale del 66. E poi comunque la cognizione tattica di Capello qualcosa evidentemente agli inglesi ha dato. Gli inglesi ci sono abituati delle nazionali, delle squadre di club sempre estremamente aggressive, ma insomma poco accorte dal punto di vista tattico. Ecco, se a questa aggressività si aggiunge invece un rigore, probabilmente le cose non potevano che migliorare. L'Inghilterra nelle amichevoli non ha mai esaltato, non ha esaltato neanche ieri, perché soprattutto l'Egitto 3-1, ma facendo molta fatica, il punteggio fino a poco meno della fine, ma sull'1-1. Però nelle partite che contano, alludo alle qualificazioni agli europei, gli inglesi hanno fatto molto bene, tra l'altro con squadre nemmeno di seconda fascia, come la Croazia soprattutto e l'Ucraina. Quindi io credo che gli inglesi si presenteranno a questi mondiali con le... Bene, ripeto, c'è questa grande incognita del portiere, perché lì dove è tra i pali è io credo che praticamente dai tempi di Shilton, ne parliamo di 20 anni fa, che gli inglesi non hanno un estremo di nastro all'altezza. Grazie Nicola. Grazie a te Gigi, grazie agli ascoltatori. Chiudiamo questo collegamento con Sky Sport. Alcuni messaggi. Andrea da Como precisa, ha ragione, l'europeo la Spagna non l'ha vinto con Del Bosque, è vero, l'ha vinto con Aragonés. Del Bosque è subentrato subito dopo e ha e ha, direi forse ancora migliorato qualitativamente la squadra, ammesso che fosse possibile. Alessandro Fabri da Agrate scrive: io, se non ho capito male, l'Argentina a 12, se davvero è a 12 me la prendo e me la gioco, buon pomeriggio e grazie dell'informazione. Non è una brutta idea difatti, perché se l'Argentina è sente. Poi dopo vi racconto cosa ha fatto ieri sera Maradona sul piano del palleggio stavolta, non della dialettica hard. Torniamo in onda e torniamo in vostra compagnia adesso, cominciando da Antonio che ha chiamato da Napoli. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io la partita di ieri mi ha fatto ritornare in mente quella di quasi 30 anni fa, nell'82, che con l'inizio dell'Italia che... Sarà quasi 30 allora, Antonio? Io ne ho 55. Sì, no, ho capito, ma nell'82 sono quasi 30, sono 28, non sono 20 anni fa. Sono quasi 30. Niente, che poi chi l'avrebbe detto che l'Italia avrebbe vinto i mondiali? Ma io adesso faccio gli auguri a questa nazionale che possa vincere. Possa fare qualcosa di meglio. No, ma difatti Antonio, grazie. Non c'è mai da allarmarsi in maniera speciale per una partita, ma poi neanche così negativa, insomma, per una partita non brillante a tre mesi dal mondiale. Quell'Italia dell'82, lei probabilmente si riferisce all'ultimo test addirittura che fu fatto a Braga pochi giorni prima dell'esordio, un disastro autentico, e da lì si scatenarono in maniera definitiva delle polemiche ancora più feroci di quelle che prima non c'erano. Però già nella marcia d'avvicinamento, più o meno a quest'epoca, credo fosse febbraio, l'Italia dell'82 andò a Parigi contro la Francia di Platini e perse 2-0 seccamente, ma vedendola poco la palla. Ora, a parte il fatto che quella Francia poi andò in semifinale e la perse in maniera immeritatamente vergognosa contro la Germania, insomma, vinceva 3-1 nei supplementari a un quarto d'ora alla fine, e la Germania giocava ancora con il suo portiere Schumacher non espulso da un arbitro cieco o diciamo troppo disinvolto, ma al di là di questo, insomma, quella Francia era una signora squadra e quell'Italia avrebbe poi vinto il mondiale pur essendo stata battuta così nettamente. Allora, questi test non sono dei verdetti definitivi, contano contano fino a un certo punto, ma contano, però, nel senso che qualcosa vogliono pur significare. Se una squadra dimostra, non so, per esempio la facilità di palleggio che continua a dimostrare la Spagna, che ha dimostrato anche ieri sera sul campo della Francia, e se una squadra continua a dimostrare gli stessi imbarazzi che dimostra ormai da un sacco di tempo nella manovra, come ha dimostrato ieri sera l'Italia, una riflessione su questo mi sembra inevitabile. Da Cuneo, Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Allora, io volevo fare un breve discorso sulla questione Balotelli e razzismo, perché martedì nella trasmissione era stata lanciata una proposta del tipo la federazione dovrebbe imporre a Lippi la convocazione di Balotelli anche per dare un segnale contro il razzismo. No, Riccardo, mi perdoni. Riccardo, mi perdoni. Non mi faccia però dire le cose che non ho mai detto. La federazione potrebbe forse anche suggerire a Lippi. Allora, da lì alla nazionale dovrebbe imporre a Lippi, lei capisce che c'è una differenza discreta, no? Il concetto non è la coglie. Cioè, non è questione di differenza, il concetto è questo, che Balotelli va convocato indipendentemente dalla pigmentazione se è un giocatore da nazionale, punto. Non c'entra la pigmentazione, non c'entra il segnale, anche perché se poi si afferma che, come ha affermato lei ieri, che l'Inghilterra è un modello di integrazione, io le ricordo che a Birmingham, o Birmingham a seconda della pronuncia, esiste un muro tra il quartiere cristiano e il quartiere musulmano. Di recente un muro tra il quartiere cristiano e cattolico e il quartiere protestante. Riccardo, apposta il calcio serve, deve servire per questo genere di messaggi. Cioè, se c'è dato che purtroppo questi drammi esistono nella società e nella vita di tutti i giorni, se c'è e dato che il calcio ha la valenza sociale che ha dal punto di vista del messaggio, proprio per questo sarebbe utile, non la federazione deve imporre, lei evidentemente è uno di quelli che che ascolta, ma poi traduce liberamente. Io non posso mai aver detto che la federazione dovrebbe imporre, perché non lo penso. Penso che la federazione potrebbe anche suggerire, o comunque credo che non sarebbe malcontenta, mettiamola così, se per caso arrivasse una cosa di questo genere. Fermo restando che su una cosa sono completamente d'accordo con lei: non c'entra la pigmentazione, c'entra la qualità del giocatore. E allora, se il giocatore serve, e se si pensa che sia utile, e se è davvero bravo, e se è di quella caratura, lo si convoca, punto, a capo. Poi, volendo, potrebbe esserci quel valore aggiunto in più. Carlo Massa Carrara, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io faccio un velocissimo intervento a mo' di battuta. Io la stavo ascoltando prima sul discorso delle bestemmie e della squalifica data di Carlo, dove lui stesso dice di non ricordare neanche di avere probabilmente bestemmiato. Da buon toscano, dove purtroppo, ahimè, la bestemmia fa parte un po' anche del nostro intercalare, ho immediatamente collegato questa situazione a un giochino nel quale probabilmente Cassano potrebbe diventare ispiratore, cioè vedere molti allenatori con la mano davanti alla bocca per evitare di essere colti sul fatto, probabilmente non per motivi reali di arrabbiature verso l'arbitro, ma spesso posso immaginare che in un momento di tensione nel parlare... Sì. Pur non condividendolo, chiaramente. Ma certo. Ma sono tanti gli aspetti curiosi di questa vicenda. Io sono anche convinto che alcuni tra i bestemmiatori più incalliti sono quelli che si fanno il segno di croce a inizio partita e magari anche alla fine, spesso e volentieri in favore di telecamera. Ma quello va bene, no? Cioè, l'ostentazione va bene, la trasgressione evidentemente no. Anche lì sarei d'accordo fino a un certo punto. È una materia, secondo me, che su cui sarebbe stato giusto un intervento educativo, un intervento di questo segno che c'è stato, ma molto molto più leggero e molto meno plateale, secondo me, meno invasivo. Questa della prova televisiva è una comica. Ieri ha sentito un londinese studioso del nostro costume, ha sentito le sue risate e mi ha riscritto Stefano Stoppani da Città del Messico, questo ascoltatore di cui vi ho parlato ieri, che ha scritto per ringraziare, perché l'hanno chiamato amici italiani sorpresi che il suo nome fosse stato citato ieri in trasmissione, e riscrive e dice: a proposito di bestemmie, cresciuto in Argentina negli anni 70 ed ero presente allo stadio Monumental quando Bettega ha assistito all'attacco di Pablito, infilò Figliol e con lui il generale Videla. Insomma, è uno che sa scrivere, questo nostro amico di laggiù. Durante una partitella in parrocchia dopo catechismo alla Plata fu proprio il nostro parroco a tirare una bestemmia memorabile, ma non c'era la prova televisiva e non venne giù il cielo. Quelli però erano anni terribili in cui il cielo argentino era forse disabitato. Io mi auguro, poi aggiunge che padre Tosel probabilmente ci regalerà ancora momenti memorabili di sincera umanità. Mi auguro di ricevere ancora delle, insomma, di corrispondere ancora con una persona di questa levatura e oltretutto di questo livello di scrittura, perché quella frase è di alta scuola. Ruggero ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta una cosa, io è la seconda volta che la sento, sono un ex allenatore dilettante, forse lei si ricorderà. Senta, io volevo fare un'analisi a proposito di Lippi. Se vediamo se lei mi sa rispondere a questa domanda. Secondo me Abete ha dato una possibilità a Lippi di valorizzarsi ulteriormente come allenatore, nel senso che lui tutte le proposte che vengono dall'esterno che non siano sue, visto che lui chiama Totti, che lui richiama Nesta, queste cose qua, e invece dall'opinione pubblica viene Cassano, viene Ballotelli, che anche nella Gazzetta stamattina dice che non ha cambiato idea, eccetera. Lui si gioca per se stesso questa chance mondiale per far vedere che ha provato a convocare qualcuno tipo Cossu, questa gente qua, che vuole vuole giocarsi personalmente il prestigio, non dar retta a nessuno. Per me sono del parere di una volta che le dicevo che la nazionale è di tutti e dovrebbe tener conto anche dell'opinione pubblica, dei giocatori che tutti vedono in televisione. Che Ruggero, io non sono d'accordo con lei, non sono un sostenitore di Lippi come forse si sarà capito. Ma non credo, se un commissario tecnico comincia a dar retta all'opinione pubblica è finita, perché deve fare una squadra, deve fare una decina di squadre, tenere pronto una decina di squadre ed essere pronto a cambiarle a seconda di chi ha fatto le cose migliori nella partita della giornata precedente. Discorso che vale in parte anche per Balotelli, intendiamoci, e mi ci metto dentro anch'io in questo, solo che ogni tanto c'è qualche reparto che è talmente sguarnito e che è talmente desolante, no? Che se c'è appena appena una candidatura potenziale si tende a sottolinearla magari in eccesso, perché? Ma perché lì davvero c'è poco. Intendo dire che si può rimproverare a Lippi, per esempio, di non provare sto Balotelli, facciamolo, però gli si deve anche dare atto che ieri sera questo Lebari, Bonucci, che ha portato, ha fatto una signora partita, e non mi pare che la difesa italiana non abbia bisogno di essere rafforzata, no? Tanto più dopo il forfè di Nesta. Quindi insomma, io proprio che lui lavori pro domo sua come la sua tesi, non so, mi sembra un tantinello fuori luogo, ecco. E per fortuna qualcuno di voi mi ha ricordato Maradona. Non è che abbia fatto niente di straordinario, ha fatto una cosa normalissima per lui ieri sera, ma è stata talmente bella e spontanea che davvero era da applausi davanti al televisore, perché lui è sempre in piedi davanti alla panchina, un paio di metri in piedi, un paio di metri davanti, è sempre dritto come un fuso, no? Piccolino e dritto, ma con quell'aria molto impettita, molto compresa, molto partecipe. E c'era una rimessa laterale per la Germania e da una decina di metri più avanti un giocatore dell'Argentina calcia il pallone abbastanza secco verso questo, da una decina, quindicina di metri, verso questo tedesco che sta arrivando di corsa a fare la rimessa. La palla era rasoterra, forte, secca. Maradona ha fatto un mezzo movimento con la, puntando il piede di sotto. Io non ho capito cosa ha fatto, so che quel pallone gli è girato mezzo dietro la schiena, lui se l'è fatto arrivare sulla mano e l'ha presentato al tedesco per la rimessa laterale come fosse un vassoio di pasticcini. Ripeto, per Maradona è una cosa assolutamente normale, anche a 50 anni, perché ormai a ottobre li compirà, però era una di quelle cose che così ripassano per dire chi sia stato, no? questo fenomeno. E visto che appunto siamo in genere revival, andiamo subito a trovare Nicola Filippone. Sembra ieri. 4 marzo 1992. Marassi si esalta per il Genoa di Osvaldo Bagnoli, capace di battere per 2-0 il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Coppa UEFA, con reti di Fiorin e Branco. Due settimane dopo la formazione rossoblù completerà l'opera, andando addirittura ad espugnare Anfield Road, grazie a una doppietta di Aguilera. Il sorprendente cammino europeo del Genoa si concluderà in semifinale contro l'Ajax, che poi conquisterà la Coppa battendo il Torino. Ci sono molti messaggi oggi a cui varrebbe la pena di rispondere, o che comunque che vale la pena di segnalare. Uno lo firma Christian da Carpi e dice: è tutta vera la sua difesa di Lippi, a parte che poi è una difesa relativa, ma chiamare Gattuso e non Ambrosini è vero, Christian, questo vuol dire fare parte, cioè vuol dire concepire la nazionale come gruppo chiuso, no? Come maso chiuso, mi viene da dire, perché non c'è nessun dubbio che oggi Gattuso sia un'alternativa nel centrocampo del Milan, di cui Ambrosini invece rappresenta un perno. Però in nazionale non è mai stato così, è sempre stato il contrario, e quindi Lippi non è solo il selezionatore dell'Italia, è anche l'allenatore di una squadra che in questi anni ha fatto perno su Gattuso, sicché tutto questo alla fine una spiegazione, una logica ce l'ha. Nicola ha chiamato da Bari, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Sul nazionale, volevo dire, io ce la potrei anche avere con Lippi per il fatto di Cassano, essendo di Bari, quindi. Però non me la sento, perché diciamo che Cassano è un ragazzo anche poco raccomandabile per quanto riguarda, diciamo, la persona, l'uomo. Così altrettanto Balotelli. Poi diciamo che Lippi, il signor Lippi ha attinto da un campionato che d'italiano si può dire che ormai ha ben poco, e ha fatto quello che ha fatto, ha vinto il mondiale pure, quindi non lo so, criticarlo a priori non me la sento. Sono d'accordo con lei. Dico, magnifico, sembra che insomma il medico le avrebbe ordinato, lei ha in mano una ricetta, no? che le dice di criticare Lippi, e poi invece alla fine, nonostante Cassano, nonostante tutto, non se la sente. Va bene, è uscita ieri questa statistica sugli spettatori di Serie A, che sono in crescita, parlo di spettatori da stadio, che sono in crescita, quindi è un dato abbastanza confortante quello che è stato comunicato dalla Lega. Le presenze medie negli stadi di Serie A dopo la settima giornata di ritorno sono 24.559 a partita contro le 24.167 di un anno fa, quindi insomma sono 400 spettatori circa in media a partita guadagnati rispetto all'anno prima. La classifica è guidata dai tifosi dell'Inter, che sono mediamente presenti nel numero di 55.063, sono davvero tanti. Al secondo posto c'è il Napoli, 49.228, il Milan, 40.251, la Roma, 35.6 e la Lazio, 32.8. In Serie B la squadra che ha più tifosi allo stadio è il Torino con 13.175 davanti a Cesena e Salernitana. Giovanni ha chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno. Okay. Sì, dunque volevo dire su Lippi, praticamente io essendo interista non sono molto, approfitto per dirle che, per fare anche una domanda magari che esula dal tema, Lippi ovviamente quando... Ma ha suonato il cellulare all'improvviso? Perché? Cioè, perché la sento un po'... Come? Pronto? No, dico, ma la Rosa, la centralina, l'ha richiamata in un momento poco opportuno per caso? No, va tutto bene? Va tutto bene, spero. Va tutto bene, sempre. Dica allora. Spero c'è qualche problema. No, lo domandavo a lei, mi dica. No, niente, volevo approfittare per farle anche una domanda, visto che va bene lì, l'Inter con Lippi non ha avuto grande successo, poi dopo comunque lei mi diceva che cioè, praticamente criticava Mourinho, forse andiamo fuori tema un attimo, comunque volevo chiedere se un altro allenatore con la squadra dell'Inter dell'anno scorso riusciva a passare col Manchester. Non lo so, Giovanni, io ho una pazzesca nostalgia, che la Roma ha preso 7 gol, 7, e come no, io ho una nostalgia pazzesca del pastore di ieri, sa quello che ha chiamato dal Frusinate, e non so perché è da ieri che ce l'ho in testa, e oggi in questo momento mi è tornato in mente in maniera ancora più viva e più affettuosa. Grazie del suo intervento. Andiamo a Catania da Marco, buongiorno. Dottor Garanzini, due cose telegrafiche, una sulla nazionale e una sulle bestemmie. E allora non dobbiamo dimenticare che abbiamo in bacheca una Coppa del Mondo, e io su questo, anche se ho antipatie verso Lippi, non ce lo possiamo dimenticare. Io nutro solo un dubbio, mi fido di Lippi senza ombra di dubbio, perché ripeto, è vincente, e ho un solo dubbio, e speriamo che lui me lo sfati: la difesa Zambrotta, Cannavaro e Grosso mi danno forti dubbi, però mi fido di Lippi. Si ha detto poco. No, mi danno pochi, in questo momento non sono tante fila. Sulle bestemmie avevo una proposta molto semplice. Ecco, no, io ho sempre paura di quando interviene uno sulla bestemmia, non vorrei che arrivasse il giorno che uno ne fa un esempio. No. Perché dico io, multa di 5.000 euro per me va benissimo, facciamo un fondo comune e lo utilizziamo per i disoccupati, per chi volete voi, perché tanto non siamo all'università, di bestemmie li faranno sempre, la multa di 5.000 euro per me è sacrosanta, e li destiniamo dove volete voi, l'importante è che questi signori li pagano. Bravissimo. E così, grazie dottor Giorgio. Sono completamente d'accordo con lei, Marco. Già ieri un ascoltatore più o meno aveva dato questo genere di indicazione, che io condivido al 1000%. Le dirò che in qualche caso potremmo fare 5.000 euro di base e poi alzarla a seconda di chi è il bestemmiatore, perché insomma quelli che guadagnano che guadagnano non so, alcuni milioni o molti milioni di euro l'anno, magari 5.000 euro è persino offensivo chiederglieli come multa, no? È per rispetto loro che si potrebbe aumentare un po' la tariffa. Sabato torna il campionato, sabato e domenica. Atalanta-Udinese, l'arbitro è Giannoccaro. Bari-Chievo e Pinzani. Bologna-Napoli e Romeo. Cagliari-Catania Pierpaoli. Fiorentina-Juventus, che è l'anticipo del sabato alle 6, alle 18 è D'Amato. Poi c'è Roma-Milan, che è l'altro anticipo di sabato, 20:45, c'è Tagliaventoli Terni, l'arbitro di Inter-Sampdoria. E poi c'è Palermo-Livorno con Russo. Inter-Genoa posticipo serale alle 20:45 di domenica con Banti. Sampdoria-Lazio Brighi e Siena-Parma Gervasoni. Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti, Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.